Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Vi distruggiamo, mi smacelliamo, quelle grandi c***e milanesi. Venite qui che ci abbiamo bello duro, ci abbiamo un metro di lunghezza e due metri di cappella, vi distruggiamo. Un'orgia party con tutte le ragazze di Nonella Rai giù a casa mia, compresa quella zozza, quella fia de Peppe e che ciarbare, vabbè, insomma ragazzi, vi vorrei dire che il c***o di Michela è largo. Visto che oggi il tema di discussione della giornata è l'esplosione del machismo in rete, come se la rete fosse responsabile improvvisamente di un incrudimento del genere maschile, ho fatto sentire una registrazione di Radio Radicale del 1986. Nell'86, poi nel 93, Radio Radicale fece questo esperimento di lasciare una segreteria telefonica con i microfoni aperti. L'escalation fu velocissima, in capo a pochi giorni questo veniva fuori. Esplosa una sorta di turpe, vigliacca, fosca, violenza generalizzata, in cui poi in realtà l'elemento costante era l'antichissima maniera che hanno sempre avuto gli uomini per affermare la propria supremazia sugli altri, e quello degli animali, la sottomissione sessuale e fisica. Quindi si cominciò, mi ricordo benissimo perché fu un caso e se ne discusse molto, io già facevo questo mestiere, quindi già mi occupavo di queste cose. Si cominciò con delle contrapposizioni tipo politico, poi la contrapposizione politica cominciò a scivolare sul piano geografico regionale, e cominciò poi avere delle laterali viraggi sul lato sportivo, cominciarono nord contro sud, milanisti contro interisti, adesso non so bene come fu, poi maschi contro femmine, maschi contro maschi, poi te lo spacco, te lo sfondo, te lo faccio, te, tua sorella, tua madre, tua zia, tua nonna e via dicendo. Cosa vogliamo concludere? Vogliamo concludere che oggi bisognerebbe guardare con maggior distacco, non come se fosse un esempio che esplode quella terrificante inciviltà che su tutti i giornali, che è accaduto sul blog di Beppe Grillo, che ha fatto una domanda stupida e incauta, aveva messo il video che aveva fatto un suo militante, che poteva anche entrare nel novero della lecita satira politica, aveva fatto una sagoma di cartone della presidente Boldrini, la teneva in macchina con lui mentre camminava, gli faceva alcune domande sulle vicende parlamentari sin troppo note della ghigliottina e via dicendo. Ci stava, non c'era niente di insulto, era esattamente quello che Crozza fa con molta più arte, con molto più mestiere, quello che i comici fanno in televisione, l'ha fatto a modo suo. Discutibile se vogliamo dal punto di vista proprio della resa artistica, comunque lecita satira politica, chiamiamola così. Grillo l'ha messo nel suo blog dicendo: cosa fareste se aveste la presidente Boldrini in macchina? E naturalmente è riscattata questa profonda vigliacca vena macista che esiste nella nostra umanità. Non so di chi sia la colpa, non so quanto sia latente, non so quali siano gli strumenti per tirarla fuori. E improvvisamente è venuto fuori il fatto che in realtà se la rete non ci fosse non potrebbe accadere una cosa del genere. Vedo oggi pagine intere sui grandi giornali che parlano dell'escalation, dell'inciviltà. Già immagino il passo successivo sarà: mettiamo un bavaglio, mettiamo una censura. No, non è esattamente così. Su questo vorrei riflettere. Quanto voi avete subito qualcosa di simile per esservi esposte in rete? Quante volte vi siete avete deciso di ritirarvi dal vostro spazio web, di chiudere il vostro blog, di smettere di stare in un social network, o semplicemente di cancellare persone da WhatsApp, che è la cosa più semplice, è un sistema, se volete, poter raggiungere una persona senza doverla disturbare al telefono, automaticamente ti dà una possibilità di raggiungere con un messaggino scritto in maniera del tutto neutra via rete le persone che hai nella tua rubrica telefonica del tuo palmare. Questo perché è importante secondo me, adesso ve lo spiego fra un istante, intanto cominciate a chiamare 800 24 00 24. È una roba allucinante, intervistavano queste ragazze e gli chiedevano: ma ti piacerebbe farti rifare il seno come regalo di Natale? Magari, dicevano, così sembro più bella, più prosperosa, più sexy. Ma brutta e rotta in c***o. Ma non ho capito che la bellezza è quella dell'animo, è quella dell'anima, hai capito? È quella che si vede nello sguardo delle persone. Fate veramente schifo. Questo per farvi capire non occorre andare a cercare la furbata di Beppe Grillo, che ponendo la domanda cosa fareste se aveste in macchina il presidente Boldrini, chiaramente ha aperto la scaturigine della più profonda e repressa maschilitudine perversa. Questo è un signore che fa l'opinionista in rete, parla male delle donne, odia le donne. In realtà la misoginia è una componente propria della rete. Sono stati fatti studi in questo. La rete nasce maschile, è orientata verso il possesso dei maschi, per questo non è assolutamente un posto per donne, ancora non è un paese per donne. Questo era il titolo di un pezzo che ho scritto una decina di giorni fa sulla Stampa, quando avevo notato l'inchiesta, l'aveva fatto una bella giornalista di Los Angeles, Amanda S., che aveva scritto nel suo magazine online Pacific Standard, che è rimasta piuttosto male del fatto che lei, che era molto esposta su temi legati alla sessualità, alla relazione, quindi una donna che aveva abbandonato questo ruolo di custode del sacro focolare, si era sentita addirittura minacciare spesso di morte. L'escalation era sempre la stessa: complimenti fisici, apprezzamenti sempre più pesanti, poi minacce di morte, e si era stancata, tanto che aveva detto che cominciava a avere la tentazione di smettere di pubblicare in rete. Gli risponde il giorno dopo su Atlantic, un altro magazine, un suo collega, dice: guarda, è proprio vero, un sacco di mie colleghe a un certo punto hanno smesso di tenere dei blog, hanno smesso di stare su Facebook, hanno smesso di esprimere il loro parere in rete. Perché? Perché erano colpite da questa sorta di folle orde di maschi assatanati, violenti e primitivi. E questo perché è un problema, secondo me? A me non scandalizza tanto che esistano certi uomini, sono sempre esistiti, e certi sistemi li fanno affiorare come una cartina tornasole. Vuoi 30 anni fa un microfono aperto a una radio, vuoi oggi il web. No, mi dispiace perché la rete, che è un posto nuovo, è un'area ancora da colonizzare, perde una grande chance, perde l'idea di una visione femminile della realtà. La rete è sempre più orientata in senso maschile. Anche gli uomini più illuminati alla fine rimarranno, ma le donne avranno sempre più paura, sempre più timore, alla fine si scocceranno ad essere considerate sempre prede in rete. Ma il mondo è talmente libero ormai nella possibilità di allacciare relazioni, ma in rete improvvisamente si scatena qualcosa di maschile che l'umanità stessa non ha ben risolto. 800 24 0024. Maschio 100% per i diritti dei maschi, contro la donna soldato, contro il monopolio dell'informazione femminista, contro l'onda di beatificazione della donna moderna, contro l'aborto. Questo è un altro maschio 100%, ma sono esempi da baraccone, sono ridicole esemplificazioni paradossali che è facile puntare il dito contro di loro, ma in realtà secondo me è molto più limaccioso, molto più esteso. Dentro le grisaglie di austeri e impeccabili colleghi molte volte si nascondono dei subliminali molestatori, infastiditori, corteggiatori non graditi e non richiesti. Perché avviene questo? Come avviene questo? In che maniera avviene questo? Io non ho voluto chiamare ormai le professioniste della dignità femminile, ho voluto chiamare un'amica mia che ha tutte le caratteristiche per poter dire la sua. Primo, è notevolmente gnocca, questo non è colpa né merito suo, ma è così. Secondo, sta molto in rete. Terzo, fa anche la giornalista come Amanda S., quindi ha una possibilità anche di avere strumenti di decodifica della realtà più raffinati che una qualsiasi signora che sta in rete magari fa altri tipi di lavoro. Marianna Aprile, giornalista di Oggi, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Il tuo punto di vista, sei d'accordo con quello che dice Amanda S. qualche giorno fa, che ha lanciato al suo blog questa idea che non è internet un paese per donne, perché quanto sia comunque è sempre un limite essere donna in rete, alla fine non ce la fai più, ti stanchi, ti scocci, e secondo te è una questo avviene proprio perché la rete istiga e facilita questo tipo di attività, o in realtà esiste questa sorta di profonda e detestabile parte maschile di cui tutti siamo responsabili? È anche bene e giusto che alla fine ci siano degli indicatori che la rivelino. Guarda, la ESA ha sicuramente ragione su molte delle cose che ha scritto e che tu hai riportato, però c'è una secondo me un distinguo da fare sull'individuazione dei colpevoli o comunque delle cause di tutto questo. Se la rete, come gran parte della società, ahimè, non è un posto per donne, o comunque non è un posto comodo per le donne, è dignitoso spesso, la responsabilità in parte è anche delle donne. La rete non inventa nulla, cioè offre strumenti e amplificazioni al reale. Nel reale c'è un gran numero di donne che loro stesse hanno iniziato a pensare da uomini, a pensare senza concedersi il lusso che la natura gli assegnerebbe loro di partire da una visione femminile. Ecco, fammi un esempio pratico, così capiamo. Ti faccio un esempio. Nei giorni scorsi c'era un'intervista su un noto quotidiano di una deputata del PD, in seguito alla cinota frase del deputato Grillino sui meriti delle parlamentari del PD. Sì, si parlava di Pompini, che mi sembra che è un argomento ormai consunto legato all'arco, esatto, parlamentare. Mm. C'era però... Solo quando si parla di Pompini degli altri si parla meglio, quando se ne parla in casa proprio fa un po' più male. Sì, però mentre nell'epoca dei gossip sulle ministre del PDL, le ministre medesime si erano difese, diciamo, rivendicando la propria dignità di donne e accusando la controparte di averla ferita, in questo caso c'è stato un passo che io ritengo, da donna, da cronista, da osservatrice, agghiacciante. La deputata Giuditta Pini, che tra l'altro è credo la deputata più giovane della Camera, del Parlamento italiano, è una ragazza molto in gamba e con un grande senso dell'ironia, che però a mio avviso ha preso una cantonata micidiale in questa occasione, perché ha rilasciato un'intervista in cui, invece che prendere le distanze dal punto di partenza dell'offesa e quindi da questa visione macista del reale e delle carriere e della società e della rete, l'ha cavalcata, per cui ha dato una risposta che in uno sketch di Crozza sarebbe stata benissimo, ma che in bocca a una deputata donna stonava parecchio. Tipo ho la mascella che mi fa male, qualcosa del genere. 7.100 preferenze in 3 giorni, ho ancora la mascella che mi fa male. Ora, spesso è colpa delle donne se la rete diventa un posto infrequentabile per le donne. È colpa, i social network, se pubblichi... Voleva fare una battuta da donna liberata, sicuramente. Sì, ma è una donna che si crede liberata, ma che invece ha aderito a un modello, perché è scesa sul campo che questo macismo diffuso ha imposto alle donne. Se una donna cui dice una cosa del genere parte di destro, come minimo, non è che risponde sì, è vero. Non... Cioè, hai ragione, questo è perfettamente. Poi tu lo puoi dire, se lo dicessi io sarebbe un corollario sospetto di lettura macista, ma detto da te è perfettamente comprensibile. No, è un abdicare al proprio ruolo femminile. Cioè, invece di portare la società a femminilizzarsi, ma non come fanno gran parte dei mass media, cioè propinando a un'idea di donna che ormai non esiste più, paginate di moda, di tendenze, di posta del cuore e quant'altro, ma femminizzare il punto di vista sul mondo, che è un punto di vista accogliente, morbido, che fa dell'empatia il suo punto di partenza. Comunque diverso da quello preminente. Melog. Cronache meridiane. .800 24 0024, non ci stracciamo le vesti, non ci scandalizziamo, osserviamo, cerchiamo di trarre, se possibile, delle massime di possibile eventuale saggezza da quello che è accaduto in questi giorni, la bagarre sessista in rete. È possibile cominciare a osservarsi e cercare in qualche maniera di avere strumenti di rettifica, siamo noi uomini o donne, perché il pensiero dell'umanità espresso in rete diventa il più grande ricettacolo, la più grande memoria, il più grande archivio di quello che accade, di quello che si riflette, di quello in cui ci si contrappone, possa essere un pensiero non così rigidamente monocratico e maschile. Milena, buongiorno. Ah, buongiorno, ciao Gianluca, senti una cosa, volevo dire solo questo, fino a che punto arriva la misoginia contro le donne? Allora, un uomo di 69 anni, uno scapolone, è arrivato a dire che a pari merito, diciamo, si lava un uomo, si lava la donna puzza più dell'uomo. Cioè, la donna dice che ha in sé proprio la pelle, tutto il suo apparato, così puzza più dell'uomo. Vabbè, dipende, ma che ne so, dipende da che donne frequenta, ci saranno anche donne puzzolenti, non lo escludo, non è che la donna in sé nasce con l'adamantina possibilità di non può essere, magari ha frequentato donne che non si lavano, è stato sfortunato, non so che dire, ma non è misoginia, è rozzaggine. È una cosa fuori dal comune comunque. Dipende, ma è un suo amico questo qua? No, è un uomo che ho conosciuto in un sindacato, per cui si è permesso di fare una cosa del genere. Avrà avuto delle esperienze traumatiche nella vita, poveretto. Andrea. Sì, buongiorno. Sì. io sarò anche banale, esprimo il mio pensiero. Se in Italia l'uomo che commette un reato sulla donna, no, è abusa di una donna, ma oggi non si sa che pena venga giustamente a subire, figuriamoci cosa va a pensare se scrive bestialità o stupidaggini su un blog. Gli sembra una cosa normalissima. Sì, lei ha ragione. Adesso, se un uomo fa una violenza su una donna, oggi le pene ci sono, va individuato e va circostanziata l'area del reato, ma le pene ci sono. È che non deve essere la paura di una pena, è che la rete dà l'idea, l'illusione a chi poco la conosce dell'impunità, e uno si può liberamente sfogare come se scrivesse sul muro o sulle mura di un gabinetto. Questo è l'atteggiamento. Riprendo con Marianna Aprile, giornalista di oggi, collega che sta molto in rete, si muove molto, si espone, si mette in gioco, non è che si nasconde, come giustamente oggi vada considerata la rete come un altro strumento professionale, un luogo in cui si possono trovare anche delle fonti interessanti di lettura del mondo. Quindi Marianna, eravamo arrivati al punto che oggi in realtà la grande eco scandalizzata da parte del presidente Boldrini, che ha ragione, certo, a nessuno fa piacere sentirsi scrivere queste cose, e il mea culpa e anche il voler fare le vittime dei grillini che dicono adesso dicono che siamo degli stupratori e via dicendo, in realtà non aiuta questa sorta di fatidico e auspicabile cambiamento del modo di pensare, della cultura, del punto di vista nella rete. Ma no, perché io ti parlo da un punto di vista puramente ovviamente femminile, è faticoso avere a che fare dalla rete senza cedere ai cliché che la rete come il mondo esterno ti in qualche modo ti impongono. Ti faccio l'esempio dei social network. Parlami di te, che mi ti posso usare come diciamo cavia questa. Sì, no, ma ci conosciamo da anni e ci seguiamo e ci vediamo. Mi dici, quando per me è molto facile muovermi, dire qualunque cosa, parlare di qualunque argomento, linkare qualunque pezzo, qualunque articolo. Per te c'è qualche differenza in più, secondo, non so, non devi dire. Sì, è una regola che mi sono data all'inizio quando sono sbarcata su Facebook all'inizio, ma poi anche su Twitter, Instagram e gli altri social che frequento. È una regola base che sembra un po' l'uovo di Colombo, ma almeno nel mio caso, insomma, posso testimoniare che sta funzionando, e cioè non fare sulla mia bacheca quello che non farei al bancone di un bar. Se al bancone di un bar non mi mostrerei in reggiseno, non lo faccio neanche sulla mia bacheca di Facebook, che significa che anche, cioè, senza privarmi del gusto di condividere le foto delle mie vacanze, ammesso che la gente voglia vederle sulla mia bacheca, sto molto attenta a scegliere delle foto in cui non mi si veda troppo, non presto il fianco, tanto per usare un eufemismo anatomico, a battute brevi e derive orientate sessualmente. Vabbè, questa mi sembra la cosa più palese: non mettere foto che potrebbero dare adito a persone non di scarsa solo immaginazione, che vai cercando uomini solo perché mettono. Ma poi, tu sai bene, perché insomma stai molto sui social e hai uno scambio continuo con i followers, sai bene che su ogni bacheca dopo un po' di tempo si stabilisce, diciamo, un lessico familiare, no? Certo. Un linguaggio, una cifra condivise. All'inizio della propria presenza su un social network si pongono dei paletti, per cui io all'inizio cancellavo messaggi che contenevano parolacce, sono passata per bacchettona per una settimana, dopodiché la gente che ha avuto piacere a continuare a frequentare la bacheca sapeva di non trovarci delle tette e di non trovarci parolacce, e ha continuato a venirci, perché offri altro, offri l'ironia, offri la notizia in anteprima, offri la battuta di spirito. Il problema è che è faticoso. Per una donna che è della mia età, io ho 38 anni. Adesso non ti sta a buttare giù, dai. Dice: non posso più pubblicarle per sopraggiunti i limiti d'età, le foto delle tette. No, ma non è così, figurati. Potresti farlo ancora per molto tempo, secondo me. La mia generazione ha interiorizzato questo modello. Scardinarlo è faticoso. È più semplice aderire, è anche più gratificante, perché se uno posta la foto di un gattino a 1000 mi piace, se posta la foto di un décolleté ne ha 2000 e si sente il décolleté più bello del mondo. È una scappatoia, è una sì, scocciatoia. Però io, guarda, voglio sorpassarti, cosa per me impossibile, sorpassarti a sinistra, dico, ma se una donna avesse voglia di essere gratificata e mettere una sua foto in costume da bagno al mare perché gli piace sentir dire che mi piace, perché non può farlo senza che poi questi mi piace trasudino nell'insulto, nella lascivia e via dicendo? La risposta è in quella fatica a cui facevo riferimento prima, una fatica iniziale, una fatica di gestione artigianale e quotidiana della tua presenza sui social. Io credo, spero di non dovermi ricredere mai, ma credo di aver creato, diciamo, un codice di comunicazione con le persone con cui ho degli scambi in rete, tale per cui se domani posto la foto in costume, magari fanno la battuta, magari fanno il complimento, magari mi gratificano, ma non diventano belli. Tu hai imparato. Vanno ci sono da delle tecniche gestione. Sì, in effetti io che posso essere molto seguito, anche molto odiato, non ho a memoria persone che abbiano mai infastidito più che altro sulla mia bacheca, perché se dall'inizio poni i paletti. Sentiamo, esatto. Luigi, buongiorno. Sì, buongiorno a Imperia. Volevo dire, mi pare che su questi argomenti si facciano sempre discorsi fiume, come diceva Leopardi, vaga di ciance da superba. Sarebbe meglio non parlarne, vero? Meglio stare zitto. No, no, devo dire io una cosa, che non c'è niente da sperare. Io le posso citare semplicemente, ma anche il buon senso ci arriva, Schopenhauer facilissimamente dice questo: i 5/6 dell'umanità è stata miseramente dotata dalla natura. Su questo siamo allora, d'accordo. Lei ogni volta divida per 6 e moltiplica per 5. Quindi queste cosette anzi sono inezie in confronto a... Sì, però siccome sa com'è, io sono d'accordo con le figure, se c'è una persona cinica e spietata verso l'umanità sono io, ma siccome oggi ci siamo civilizzati e non possiamo... Siamo civilizzati chi? No, beh, io mi sento civilizzato rispetto ma a quello sì, che... Sì, ma i ragazzi, è l'unico rimedio, mi permetta, l'unico sì. Rimedio è che se a scuola incominciassero a insegnare un pochino di... Però vedi, la regola è quella che ha detto la collega Marianna Aprile: ci fossero insegnanti che a scuola usano lo stesso sistema di gestione tecnica dei propri luoghi di esposizione, oggi vedremo con più serenità anche questi episodi. Grazie a tutti, a domani.